sera ormai, ora che tu non ci sei. Io ti aspetto e resto qui, perché già so che tornerai. Ma se tu poi, se te ne andrai, alla fine io ritornerò da te. E poi non sai che non si può restare ancora. E poi non sai che io tornerò ancora, ancora, ancora. Io sto qui mentre tu ti allontani e vai via. Ora che non ci sei, ora che resto solo io, ti seguirei ovunque sei. Tu non lasciarmi, tu non andare via. Andare via, resta vicino a me, non te ne andare via. Se tornerai.